in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, buona prima domenica di aprile e benvenuti a questa lettura dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che come molti altri giornali titola sulle dichiarazioni di Gentiloni fatte ieri al forum di Confcommercio a Cernobbio, qui ma fuori Milano. Ha parlato di molte cose Gentiloni, non tutti scelgono enfatizzare la stessa parte delle sue dichiarazioni. Il Sole 24 Ore punta su quello che ha detto sui premi di produttività e gli sgravi alle imprese, perché Gentiloni ha detto il governo abbasserà il costo del lavoro. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche una analisi degli ultimi primi tre mesi dell'anno, dell'andamento delle borse, delle principali borse europee nei primi tre mesi dell'anno, che vengono definiti i mesi d'oro, guadagni pensate per 4.800 miliardi e da gennaio soltanto Madrid e Francoforte, che hanno guadagnato rispettivamente l'11% e il 7,2%, fanno meglio di Milano, che invece ha guadagnato il 6,5%. Dalla prima pagina anche la lettera all'investitore di Vittorio Carlini. Come sapete, ogni domenica il nostro collega della redazione di Finanza si concentra su un titolo quotato e questa settimana è la Brembo. Una delle principali aziende metalmeccaniche al mondo, in realtà famosa soprattutto per tutto quello che riguarda i meccanismi dei freni, ma anche per moltissimi altri sottosettori. In Cina l'obiettivo è raddoppiare il fatturato, questa la strategia a medio termine della Brembo. E poi vi segnalo dalla prima pagina anche un ricordo che per noi del Sole 24 Ore è in realtà ancora molto molto vivo, che è quello di Fabrizio Forché, scomparso un anno fa all'improvviso. Era uno dei vice direttori del Sole 24 Ore, era il responsabile della redazione di Roma, è morto proprio all'improvviso, lo ricorda Sergio Fabbrini, un anno senza la passione di Fabrizio Forché. Il Corriere della Sera, anche in questo caso, sceglie di titolare sulle dichiarazioni di Gentiloni, concentrandosi però su quello che è stato detto sui nuovi voucher. Sapete, i voucher che facevano parte del Jobs Act, ma erano in realtà un'eredità di altre riforme del mondo del lavoro, sono stati cancellati per decreto, anche per scongiurare un eventuale referendum abrogativo, vanno però sostituiti con un altro strumento. E da qui l'idea di Gentiloni, lavoro a chiamata, cioè ripristinare un'altra figura della legislazione sul lavoro, che era appunto detta lavoro chiamata, ma questa volta senza limiti di età. E poi anche il Corriere della Sera ricorda l'impegno di Gentiloni sul taglio delle tasse. La fotonotizia però è dedicata a quello che sta succedendo in America Latina, in particolare la foto è stata scattata in Paraguay, però anche in Venezuela ci sono state molte proteste, e da qui l'articolo di Sergio Romano, il mondo in bilico dell'America Latina. La Repubblica, stessa scelta, qui addirittura un virgolettato, meno tasse per la crescita, i piani del Premier, allo studio riduzioni per giovani e redditi sotto 40.000 euro. E in realtà a me fa abbastanza impressione che nessuno dei quotidiani generalisti si concentri anche su quello che Gentiloni ha detto riguardo alle proteste dei terremotati, che comunque poi naturalmente negli articoli si trova, ma non nei titoli, che appunto si è impegnato a rendere ancora più veloce la ricostruzione. Perché sapete, ieri a Roma in particolare hanno protestato le persone che vivono nelle zone terremotate e che denunciano una ricostruzione che va a rilento. Dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo altre due cose. A 45 anni dal Watergate la verità torna in pericolo, è un intervento che la Repubblica pubblica in syndication con altri giornali ed è firmato da Robert Redford. Robert Redford è famoso per aver interpretato, per essere stato uno degli interpreti di un film che ricorda poi il Watergate, che è quella storia del il Watergate era un albergo e complesso residenziale di Washington, sede del Partito Democratico e americano, e ci fu uno scandalo legato allo spionaggio scoperto in realtà da due giovani reporter del Washington Post. Uno dei due era interpretato da Robert Redford, che portò poi alle dimissioni di Richard Nixon per evitare l'impeachment, cioè che è quella figura giuridica che esiste esiste nell'ordinamento americano, che permette appunto di mettere un presidente quando abbia commesso dei reati gravissimi. Dalla prima pagina della Repubblica, che come fotonotizia ha una foto scattata in Puglia a Melendugno sulle mobilitazioni anti-TAP, cioè tutte quelle persone che stanno protestando contro l'espianto degli ulivi e più in generale contro il gasdotto TAP. E poi un articolo di Roberto Perotti, che ricorderete, un economista della Bocconi, era stato cooptato nel governo Renzi per mettere a punto la spending review. Lui la spending review l'ha messa a punto, ma quando si è reso conto che non c'era poi la volontà veramente di fare i tagli che lui e altri consigliavano, ha dato le dimissioni. L'articolo di oggi è sulla vicenda che coinvolge il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia, che sapete è accusata di aver copiato parte della sua tesi di dottorato. E dopo magari, ve lo leggo subito perché mi sembra interessante questo taglio, che non è tanto il conteggio, come sta facendo il Fatto Quotidiano, delle parole copiate, ma forse una questione un pochino più importante, cioè sulla competenza dei ministri. Il titolo appunto dell'articolo di Roberto Perotti è "Perché boccio Madia, ma non per il plagio". Inizia in prima pagina e continua a pagina 25. Vi leggo l'ultima parte. Il PD e soprattutto le donne del PD dovrebbero usare questa occasione per una riflessione. Perché tanta credine nei confronti di Madia? Ci sono due spiegazioni non convincenti. Perché non è una buona ministra, ma ce ne sono parecchi altri che le fanno ottima concorrenza. Perché gli statali ce l'hanno con lei. Ne dubito, perché sanno benissimo che la riforma della pubblica amministrazione è di facciata e i dirigenti in particolare si stanno fregando le mani. C'è una spiegazione più plausibile. Quanto segue può essere facilmente male interpretato, proverò a scriverlo comunque senza false reticenze. Parlate con la gente ed emergerà una diffusissima indignazione per quella che è percepita come una carriera fulminea senza alcun apparente merito né competenza specifica. Berlusconi era convinto che bisognasse farla finita con i politici grigi e parrucconi e riempì le liste e i talk show di giovani senza esperienza ma di bella presenza, convinto di poter vendere anche l'aria fritta purché ben infiocchettata. Il PD lo ha ingenuamente scimmiottato. Le donne del PD, soprattutto, dovrebbero chiedersi se vogliono continuare ad avallare con il loro silenzio una pratica di cui tanti parlano di nascosto, ma che nessuno osa criticare in pubblico per paura di apparire sessista. Ai talk show, nelle liste nel governo, se possibile è meglio mandare donne giovani e di bella presenza. Ma a pagare questa pratica sono inevitabilmente le donne stesse, su cui si addensano sospetti di favoritismo anche quando sono brave. La stessa Madia potrebbe essere semplicemente vittima dell'inevitabile reazione a questo marketing infantile e scriteriato. Più che delle virgolette mancanti, gli italiani sono offesi da quella meravigliosa inesperienza che i capi del partito le permisero di sbandierare senza ritegno quando la nominarono capolista nel 2008 e ministra nel 2014. Con la Repubblica in edicola oggi, anche l'Espresso, come sapete, da gennaio, da quando lo dirige Tommaso Cerno, e in copertina c'è un disegno con una scacchiera dove il re è Putin e la regina è Erdogan. I dittatori e noi, Erdogan e Putin, con il favore dei Trump, minacciano l'Europa, ma al tempo stesso la seducono per tenerla debole e divisa. Questa è un po' la tesi della copertina dell'Espresso, dove però trovate anche tantissimi altri spunti dalla cronaca e di riflessione. La Stampa ha un'apertura diversa da quella degli altri quotidiani che abbiamo nominato finora, perché apre su quello che viene definito il patto delle tribù della Libia. Sapete che la Libia, un po' come altri paesi africani e del Medio Oriente, ha questa quasi incomprensibile per noi o per chi non conosce bene il paese, appunto, questa struttura ancora tribale. Lo stesso vale in Afghanistan, lo stesso vale per esempio per lo Yemen e chissà per quanti altri paesi. E quindi è stato organizzato questo incontro dei capi del clan del sud della Libia a Roma, e 60 in tutto i leader, e si cerca appunto un accordo. Fermeremo i migranti in Libia, questo è il grande obiettivo che è stato presentato anche in tante altre passate occasioni, cioè il fatto che l'immigrazione dall'Africa parte soprattutto dalla Libia verso l'Italia e verso la Grecia, e che quindi l'ideale sarebbe che ci fosse un impegno maggiore della Libia a fermare le navi che partono da lì. La fotonotizia però, come per il Corriere della Sera, è dedicata a quello che sta succedendo in America Latina, la controrivoluzione dell'America Latina, e in Venezuela quello che viene definito l'autogolpe di Maduro, del presidente Maduro, e invece l'assalto al Parlamento in Paraguay. Il continente trema. Ultimo titolo prima della pausa, dove sentiremo anche qualche aggiornamento sul solito pazzo meteo, è Il Messaggero, che ha un titolo ancora diverso, ma sempre riferito alle dichiarazioni di Gentiloni: manovra via alle grandi opere. È stato sbloccato infatti un fondo per 47,5 miliardi. Ci risentiamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, e grazie a tutti gli ascoltatori che, anche se è così presto al mattino ed è domenica, ci stanno già mandando dei messaggi, e grazie come sempre a tutti, quelli che sono gentili e quelli che sono un po' meno gentili. Il numero è 349-238-6666 per gli sms o i messaggi WhatsApp, mentre il mio account Twitter è Giulia_Crivelli. La prima pagina dell'Avvenire è completamente diversa dalle altre, perché il titolo principale è dedicato a questa polemica sul lavoro domenicale. Domenica prossima, quella dopo ancora, sarà la domenica di Pasqua, e alcuni lavoratori hanno deciso di non lavorare, anche se per alcuni outlet o centri commerciali non è una domenica così diversa dalle altre, quindi il lavoro è previsto comunque, l'apertura è prevista comunque. Ieri è intervenuta, dopo che lo aveva fatto nei giorni scorsi, anche la segretaria della CGIL Susanna Camusso. Ieri è intervenuta Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL, che dice che si impegnerà perché lo sciopero dell'outlet di Serravalle Scrivia contro l'apertura anche nel giorno di Pasqua abbia successo. Stop shopping, rispettare la pausa. Un'altra notizia richiamata in prima pagina si riferisce a un reportage fatto da Avvenire, molto interessante e inquietante, viene dall'America Latina, questa volta però dal Brasile, ed è un reportage su come si vive nelle carceri brasiliane. Carcere inferno, la guerra segreta del Brasile, il potere e le stragi delle gang dietro le sbarre. Il giornale ha un titolo ancora diverso: Italia chiusa per ladri. Il riferimento è a una decisione presa dal Canton Ticino, la parte della Svizzera che confina soprattutto con l'Italia, e da questo confine entrano in Svizzera, scrive il giornale, molti immigrati clandestini che poi delinquono, e da qua una chiusura completa della frontiera. Le razzie dei delinquenti immigrati diventano un caso internazionale, si legge sulla prima pagina del giornale. Libero, un altro di quei titoli aggraziati: Gentiloni lecca gli statali. Il premier annuncia una manovra elettorale, 85 euro ai dipendenti pubblici, aumento del deficit di 10 miliardi, nessuna tassa in più, alla faccia dell'Europa. E poi c'è anche un accenno sulle promesse che invece ha fatto ieri Berlusconi: porterò le pensioni minime a 1000 euro. Vi segnalo dalla prima pagina anche due articoli. Uno è di Massimo Sanvito, che riguarda, ce ne siamo occupati anche in passato, citando appunto articoli, adesso non ricordo se di Libero o del Giornale, sulla questione delle violenze delle mogli sui mariti e non viceversa, che sono quelle invece di cui si parla più spesso, anche perché sono infinitamente più frequenti. Esiste però questo telefono azzurro dei mariti picchiati dalla moglie, ne parla Massimo Sanvito, perché sarebbero sempre più frequenti le violenze domestiche delle donne sui loro uomini. E poi vi segnalo dalla prima pagina di Libero un curioso intervento di Antonio Socci, che poi trovate a pagina 18. Non si esibisce nella consueta critica a Papa Bergoglio, ma parla di un brevetto italiano molto interessante sulla energia pulita. Da paese distrutto che aveva perso pure la guerra ed era prevalentemente agricolo, in pochissimi anni l'Italia è diventata la quinta potenza industriale del pianeta. Questa è la premessa per dire che esiste ancora tante risorse destinate alla ricerca che danno i loro frutti. In questo caso appunto c'è questo brevetto per produrre energia pulita. La Verità invece ha un titolo ancora diverso, perché la verità continua nell'inchiesta sulla vicenda, tristissima vicenda della presunta corruzione dell'ex segretario di AN, nonché ex presidente della Camera, nonché ex ministro degli esteri Gianfranco Fini, 2 milioni in contanti al segretario di Fini. Ma l'intervista di cui non so se riusciremo a leggere una parte, è quella che Maurizio Caverzan fa al cantautore Povia e che in prima pagina viene titolata così: l'omofobia è una scusa per affossare la famiglia. Ricorderete senz'altro qualche anno fa a Sanremo Povia portò una canzone molto contestata dove si teorizzava sostanzialmente che l'omosessualità era una malattia e che si poteva guarire da questa malattia. L'Unità ha un titolo ancora diverso, La democrazia accerchiata, e mette insieme tutto quello che sta succedendo dalla Russia alla Turchia, dal Venezuela al Paraguay, dove c'è l'assedio ai principi democratici. E poi una fotonotizia dedicata agli ultimi dati resi noti da Save the Children, una delle più importanti organizzazioni non governative che si occupano soprattutto dei problemi dei bambini in tutto il mondo. E secondo questi dati sono oltre 1 milione i bambini poveri. A loro chi ci pensa? Parliamo solo dell'Italia, bambini e adolescenti italiani che vivono in condizioni di disagio perché vivono in famiglie povere a cui la scuola pubblica non fornisce gli strumenti indispensabili per migliorare le proprie condizioni e costruirsi un futuro. E poi vi segnalo il saluto di Sergio Staino, che a questo punto possiamo definire ex direttore dell'Unità, che appunto conclude la sua breve avventura come direttore dell'Unità e ha dato le dimissioni in apertissima polemica sia con la proprietà del giornale sia con il PD, che ne possiede una piccola parte. L'Unità perde 300.000 euro alla settimana, mi sembra, se non al mese, è naturalmente sull'orlo del fallimento con perdite di questo genere, però la proprietà non vuole ricapitalizzare, quindi Sergio Staino sostanzialmente getta la spugna, anche se la redazione gli aveva chiesto di restare. Il manifesto senza tetto né legge, e qui la fotonotizia è, come vi dicevo, alle proteste che ci sono state ieri a Roma. A 8 mesi dal sisma che sconvolse il centro Italia esplode la rabbia degli sfollati. Nonostante le promesse siamo stati abbandonati, il decreto è fermo e la ricostruzione non è mai partita. Il Fatto Quotidiano: comandano gli incompetenti, il riferimento principale è a Marianna Madia, che però appunto si scrive non solo Madia, governo, autorità, aziende di Stato, il curriculum è un optional. Questa era l'ultima segnalazione dalle copertine, vediamo, abbiamo pochi minuti, ma vi segnalo anche qualcosa dalle pagine interne dei giornali. Dal Sole 24 Ore un articolo molto interessante del nostro collega Jacopo Giliberto, che è un esperto di tutte le questioni legate all'energia proprio intese in senso ampio, e anche alle cosiddette sindrome NIMBY, che è un acronimo americano che sta per Not in My Backyard, che vuol dire non nel mio giardino, non nel giardino di casa, dietro casa letteralmente, cioè è un acronimo creato per indicare tutte quelle proteste in cui per esempio si dice certo i gasdotti sono importanti per un paese come il nostro che non è autosufficiente dal punto di vista energetico, se però poi lo fate dietro casa mia e io sono un abitante per esempio appunto di Melendugno vicino a Lecce, non mi va più bene. Il titolo dell'articolo di Jacopo: l'oil and gas strangolato dai NIMBY. Le compagnie studiano le nostre mappe non più per i giacimenti, ma per evitare problemi di ordine pubblico. Vi dicevo il ricordo di Fabrizio Forché, lo trovate a pagina 16, un anno senza la passione di Fabrizio. Soltanto vi leggo il sommario perché chi scriveva spesso sul Sole 24 Ore, Fabrizio, ma soprattutto appunto era un vice direttore del giornale e organizzava tutti i giorni questo nostro quotidiano. Fabrizio considerava la rassegnazione un lusso che non possono permettersi coloro che vogliono un'Italia più moderna e più giusta. Dal Corriere della Sera vi segnalo l'intervista, l'avete sentito anche in Oltretevere, al cardinale Angelo Scola, fatta da Aldo Cazzullo. Quante falsità sul conclave, il famoso conclave che ha eletto Papa Bergoglio, farò il prete in un pasino, dice appunto quando lascerà il suo incarico di arcivescovo di Milano. Una inchiesta di quelle sì, da mani sul volante, da rassegnazione in realtà, di Gian Antonio Stella, che sui lavori del G7 che dovrebbe tenersi che si terrà in realtà il 26 e il 27 maggio a Taormina, muri scrostati, rifiuti, erbacce, la corsa in ritardo per il G7. Mancano 53 giorni al vertice di Taormina, ma al momento, poi come accade un po' per Expo qui a Milano, poi magari come sempre succede in Italia si fa appunto l'ultimo miglio in grande fretta, però tant'è, siamo arrivati a questo punto come sempre in ritardo. Ultima segnalazione dal Corriere della Sera, come sempre la domenica un approfondimento su una questione medica nelle pagine di Corriere Salute. Questa settimana in particolare si parla di depressione. Depressione, virgola, parliamone, è lo slogan che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto per la Giornata Mondiale della Salute che si celebra il 7 aprile. Alcuni fra i maggiori problemi nel controllo di questa malattia nascono dalla difficoltà di comunicarla. La vergogna rimane ancora un avversario da sconfiggere. Ci fermiamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Prima di passare ai supplementi culturali della domenica, faccio ancora due segnalazioni dalle pagine interne dei giornali di oggi. Una è dalla Repubblica. In realtà trovate questa puntata di questa vicenda di cronaca anche su altri giornali, però la Repubblica è l'unica che ha un'intervista così lunga alla madre della studentessa tolta alla famiglia, ricorderete la cronaca dei giorni scorsi, perché è accusata di maltrattamenti. La figlia ha raccontato agli insegnanti di essere stata punita perché non portava il velo, e adesso la madre dice: il velo non c'entra, ho rasato mia figlia solo per i pidocchi, ora riportatela da me. E vedremo insomma se si riuscirà a stabilire una verità, perché è veramente raccontata così, è una di quelle storie dove non si capisce veramente chi ha ragione, ed è una storia serissima. E poi vi segnalo, tanto gli ascoltatori sanno che ho questa passione per i gatti, ma per tutti gli animali, per la natura in generale, a pagina 18 del giornale un articolo molto divertente, molto da svago domenicale: cane e gatto, trova le 10 differenze. Entrambi sono mammiferi e carnivori, ma hanno abitudini e tratti molto diversi. Ecco quali. E non si cerca assolutamente di dividere le persone in chi ama i cani e chi ama i gatti, si possono amare naturalmente tutti i cani e tutti i gatti insieme. Però vi segnalo per esempio che i cani hanno 42 denti e i gatti ne hanno soltanto 30. Ma passiamo ai supplementi culturali e cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Consolazione. La citazione è di uno scrittore triestino, Gianni Stuparic, ed è questa: mi addormento bisognoso di una consolazione che non posso domandare agli uomini e non so implorare da Dio. Si intitola Guerra del 15, dal taccuino di un volontario, ed è il diario dello scrittore triestino Gianni Stuparic, scritto appunto nella solitudine delle trincee del Carso. In realtà queste stesse righe potrebbero essere sottoscritte da molte persone anche oggi, persino all'interno di un affollato condominio urbano. Nel cuore hanno un'amarezza indicibile e invincibile. Anche chi sta sullo stesso pianerottolo non può e non vuole essere disturbato per chiedergli un po' di ascolto o di compagnia. E se poi è venuta meno anche la fede, non c'è neppure la possibilità di rivolgere a Dio una preghiera. E questa è la desolazione, che deriva dall'aggettivo solo e filologicamente significa lasciar solo, e descrive lo stato di abbandono e di isolamento. Il contrario è appunto la consolazione, un'azione che spesso neghiamo al prossimo per indifferenza o per egoismo. Eppure nei suoi pensieri Pascal ammoniva che basta poco a consolare perché basta poco ad affliggere. L'articolo principale però della copertina è scritto da Domenico Scarpa. L'occasione sono i 30 anni dalla scomparsa di Primo Levi, che cadranno l'11 di aprile, e quindi un evento per ricordarlo l'8 e il 9 aprile a Torino. Questa storia mai raccontata, gli sci di Primo Levi. 13 dicembre 1943, l'arresto del partigiano Levi e le peripezie del suo equipaggiamento tra l'Italia e la Svizzera, con un imprevedibile regale ritorno. e di Cartesio invece si parla a pagina 25. Il mondo nascosto di René è una lunga recensione a un libro appena uscito di Desmond Clark, pubblicato da Hoepli, che si intitola Descartes, il filosofo della rivoluzione scientifica. Insomma, Cartesio dobbiamo tutti tantissimo per aver provato a insegnarci a ragionare sempre. Cogito ergo sum, quindi penso dunque sono, e forse nell'epoca delle cosiddette fake news questo è sempre una lezione validissima. Come sempre sul Sole 24 Ore della domenica le quattro pagine dedicate ai lettori più giovani, c'è qualcuno che sa leggere, e l'articolo principale in questo caso è di Camille Tagliabue, che recensisce insieme tre così spy stories per bambini e racconta un po' quello che trae da questi tre libri. Per far bene la spia bisogna saper parlare in pubblico, cambiare un pannolino, imparare a baciare, la missione è non dipendere dai genitori, roba da brividi, anche se quelli veri vengono leggendo uno di questi tre libri, Tre portoghesi sotto un ombrello, che è scritto da Rodolfo Walsh e edito da Gallucci, appunto uno dei tre libri segnalati da Camilla Tagliabue. Poi vi segnalo, perché ogni tanto mi chiedo se sono io un po' esagerata a volte a criticare Roberto Saviano, tuttologo, che sembra non avere appunto senso critico e si esprime su tutto. Settimana scorsa, sabato, addirittura intervistato e definito in copertina su DD Repubblica una modella cosiddetta curvy, cioè con una taglia superiore a quelle standard delle modelle, e ha dissertato di bellezza e di come gli uomini la considerano e la giudicano. E questa settimana Pietrangelo Buttafuoco, con parole sicuramente più argute e con argomenti più ironici di quelli che saprei usare io, si dedica proprio a Saviano. Il titolo della sua rubrica Scarpe strette sul Domenicale: Saviano per tutti e per nessuno. Vi leggo soltanto la prima parte. È appunto un divertissement, non ce ne voglia Saviano, però se intervenisse su un po' meno argomenti io personalmente sarei più serena. Ma vi leggo appunto le prime righe. Essere contemporanei di Roberto Saviano è un privilegio dello spirito del tempo. L'autore di Gomorra, meritoria opera di condanna della criminalità organizzata, su DD Repubblica dialoga di bellezza con Ashley Graham, la modella orgogliosamente cicciotta. Certo, scava in un campo già arato dai Platone, dagli Andy Warhol e dagli Umberto Eco, e però lui va oltre, scopre il fascino della cellulite. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è una copertina bellissima, affidata a Lorenzo Mattotti, grandissimo artista italiano, protagonista di recente di una bellissima mostra a Udine, e qui è un disegno in bianco e nero, non so se a matita o carboncino, di un uomo chino sui libri, quindi cosa di più adatto appunto alla copertina della lettura. Sempre dalla lettura vi segnalo anche qua, scusate l'abuso di questo aggettivo, ma davvero è il più adatto secondo me, un bellissimo reportage di Alessandro Piperno, che è un grande scrittore e studioso italiano, che ha dedicato a Amos Oz, che è a sua volta un grandissimo scrittore israeliano. Lo spunto è un po' l'ultimo libro di Amos Oz, che si intitola Tocca l'acqua, tocca il vento, pubblicato da Feltrinelli. Il titolo del lungo articolo è Che talento questo Amos Oz. Il libro si presenta come la solita storia di ebrei polacchi nell'inverno del 1939, quante ne abbiamo lette, ma poi... E Alessandro Piperno scrive: mi dico, questo è lo stile di un ragazzo prodigio, sembra proprio il surreale presagio di una storia di amore e di tenebra, che è la storia di tutta la famiglia di Amos Oz, in un libro altrettanto bello pubblicato una decina d'anni fa in Italia, sempre da Feltrinelli. Ultima segnalazione, la copertina di Robinson, il supplemento domenicale della Repubblica, dedicato tutto al design, perché come sapete martedì si apre qui a Milano il Salone del Mobile, grande evento, viene anche definito la settimana del design, perché a Rho c'è la fiera vera e propria, in città c'è il fuori salone, con tantissimi eventi che celebrano questa grande ricchezza italiana. Ultimissima segnalazione, in realtà ancora qualche secondo, da Macro, il supplemento del Messaggero, una pagina ciascuno per due grandi artisti che se non sono andati ieri. Rosenquist, padre della pop art, aveva 83 anni, e Evtushenko, il poeta russo nato in Siberia, che fu anche candidato al Nobel, scomparso a 84 anni. Un grazie a Andrea Roccabella in regia e ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.